aspetta. E ora come va? No, stai scendendo male, chi sei? Giulio. No. Giù. Se stai usando il 44 ti conviene spegnere, stai scendendo male. Non va. Devi aumentare la potenza, già è messo male, devi tenerlo a bassa potenza. Infatti adesso è passato poco fa, erano 20, adesso è così. Ma c'è un rumore sotto, sta andando, così faceva il mio, ho iniziato a uscire male, del radio, di modulazione, non è questione di processore o di Mickey, è proprio la radio che c'è un rumore sotto anche. Aspetta, dai, che metto il baracchino, aspetta un attimo che cambio l'antenna. No, giù, non lo usare, è meglio, attaccati il baracchino e fai quello che ti ho detto. Eccomi qua. Un'altra guba, anche di segnale. Ormai è partito, pazienza, dai, lo farò vedere. No, non va, ti sembra che vada, ma non va, ti sembra, anch'io ero sempre fiducioso, lo accendevo, schiacciavo il portante, poi mi ascoltavo tutto rauco, capito, è proprio da fermare e basta, sì. Antico che laggiù butta a posto Ghizzo, adesso è veramente a posto, però con la speranza che non esca qualche altra stronzata. Speriamo di no, speriamo che continui ad andare sempre bene. Vabbè, pazienza, dai. Pazienza, come si dice, tanto, io so che non so parlare, pazienza, come si dice. No, ma qui so parlare, lo capisco, ma non so parlare, perché mi so ci parlavano in sardo, però io non lo so parlare. Questa bella fottitura ieri, sotto c'era il trafiletto lì, Sky, TG, no, Sky Serie A, e c'erano le partite che davano, e invece la Juventus era sulla zona. Purtroppo, una giornata non ha degli annullati in squalifica. E quindi non gioca martedì con Yo Yang? No, non può giocare con quello. Vabbè, pazienza. Con Manchester già ci sarà. Pazienza, cosa ci vuoi fare? D'altronde è così. Comunque ieri la partita va bene, era solo il mio, era quest'anno. Comunque, diciamo che l'ha fatto una partita abbastanza bella, soprattutto il primo tempo, quando si è assicurato il risultato, poi magari nel secondo tempo ha calato un po', ma ha fatto il proposito sicuramente per riposarsi, per non sprecare troppe energie per la prossima partita con Napoli. Infatti, è di nuovo a Napoli purtroppo la seguitrice della Juve, come l'anno scorso, né più né meno, gli altri sono troppo deboli, assolutamente, il Napoli, ma chi si insegna che informa veramente. Tutto il Napoli ha giocato bene, in forma, so che evidentemente sta incominciando a quadrare bene tutta la valga, ma la squadra, col gioco di Ancelotti, evidentemente. Che poi che l'ultimo non è brutto ma giovato, ma anzi è il primo, sicuramente è il primo in assoluto, e dunque già lo sa lui come deve mettere a posto la squadra, ma speriamo bene comunque. Ma dove vai, a Torino o a Napoli? A Torino alle 6 gioca. Pregando sabato? Sabato sì, a Torino, vabbè. Speriamo bene. Comunque ho visto anche un buon Bimbale ieri, ha giocato discretamente. No, ma tu hai vista, ce l'hai quindi da John? No, non l'ho vista, no. Sono arrivati i miei parenti, sono arrivati a io, dice che andiamo a mangiarci una pizza e siamo usciti. Allora la partita non è tutta bene, però poi ho visto tutti i filmati, no? Alla fine ho visto tutti i filmati e ho visto anche, ho sentito anche i commenti eccetera, e mi è piaciuto il Bala, ieri ha avuto una bella ripresa, dai. Sì, io la stavo solo ascoltando Sport Italia, ma nel frattempo mi stavo guardando il Napoli, il Cagliari, sempre sfigato come al solito, giocato molto bene anche il Cagliari. Stasera mi pare ci sia il Milan alle 20:30 o alle 19. No, quello non lo so, l'ora del Milan non lo so, quello oggi sì, vabbè, anche il Cagliari lì visto. Sai che mi piace col portiere del Cagliari, ha parato il rigore anche lì. E non è la prima volta che parla il rigore il Cagliari. Non è un bravo portiere, e non a caso l'hanno chiamato anche in nazionale. Per cui, però ieri noi avevamo Perin, avevamo, ci mancava Chiedini ad ogni modo. Alessandro l'ha fatto entrare dopo. Comunque dai, è stata una partita bella. Pensa il 75%, 80% di possesso palla Juve e il resto Bologna l'ha schiacciata in aria, la proprio, che ancora non riesce a ingranare bene, e Ronaldo ancora non riesce a ingranare ai suoi dribbling. Comunque il secondo gol praticamente in un certo senso è merito suo, anche perché c'è stato un traversone che ha fatto Ronaldo, che ha rubato Matuidi e la metà dentro. Ma io questo lo sapevo, è un altro tipo di gioco, non c'è niente da fare. Real Madrid giocava per lui, i giocatori della Juventus giocano anche per loro, non c'è niente da fare. Però si sta ambientando. Ancora ci vuole molto molto tempo. Il fatto è certo che palla al piede è sempre un altro. Però non riesce a segnare. Vedi, Higuain ha cambiato squadra, si è ambientato subito col Milan, perché arrivava già da 2 anni con la Juventus, capito? E quindi lui appena arrivato è un gioco diverso e non lo so, spero che si sblocchi più fretta possibile per poter dare gioco, che comunque adesso lo vedremo col Manchester, perché questa non la gioca in Champions, giocherà col Manchester, lo vedremo col Manchester. Il suo gioco, lui è molto forte in quel campionato lì, in Champions lui è forte. Il campionato normale, anche il campionato spagnolo, non è che ha fatto tutti questi grandi gol, è in Champions che lui si scatena, ma l'ha dichiarato. Lui in spagnolo ha detto che la Champions è la sua forza, non si sa il perché. Perché evidentemente o si esalta di più in quel torneo lì, non lo so, o perlomeno ci sono giocatori che... Ma sai cos'è? L'impatto è questo, che le difese italiane sono troppo chiuse, si mettono davanti al portiere, si mettono in blocco, e sapendo che lui è forte, allora lo mancano anche in tre, uno dietro l'altro, insomma, gli fanno pressione, soprattutto così, uno dietro l'altro, e lui dice che è difficile. Però in questo caso, come hai visto, si liberano gli altri e segnano gli altri, che è quello che interessa alla squadra. Cioè non è che deve vincere lui personalmente, deve vincere la squadra, ma se segna anche lui, tanto meglio. Bravo quel ragazzino del Chievo, mi sembra che sia quello che adesso al momento è capocannoniere, non mi ricordo come si chiama, ha già segnato 5 o 6 gol e sta segnando senso quel ragazzino in una squadra dei Monti, te lo immagini? E lì manca quello che col Cagliari, Castro, no, come si chiama? Castro, boh, che ha comprato il Cagliari. Lì, ama la squadra del Cagliari. Tutti già segnando, tutti stanno segnando e l'ha visto D'Ambrosio, ha fatto un bellissimo gol D'Ambrosio, ha vinto anche l'Inter, la Roma sembra che si sia sbloccata, ha fatto un partitone e vabbè che la Juve è gruppo Frosinone, bisogna vedere quando io gioco la Juve. Beh, appunto, è quello, è. No, ma io non so fare la cosa. Quando giocano contro la Juve, cioè giocano tutti a satanati, vogliono per forza fare il risultato. Giocano contro le altre squadre, ma è veramente il Parma che si ferisce. Ieri ne ha preso tre, tranquillamente. Quando con la Juve si è fatta, in quattro si sono fatte, e la Juve ha fatto il cazzo con Parma, non è che ha vinto tanto facilmente, no? Ha vinto, ma ha vinto con po' di difficoltà. Per dire, no, è così, lo stesso con Frosinone, ha vinto con un po' di difficoltà, mentre invece, visto, le altre squadre, boh, giocano con quelli, e gli si viene guato, zinco, boh, come se niente fosse, chissà perché. Io devi considerare che col Parma era in trasferta, col Frosinone era in trasferta, cioè lo sai che a Torino non passa lo straniero. Lo so, ma... questo fatto della trasferta anche, secondo me, una squadra di quei livelli deve dimenticarselo. Secondo me deve pensare che sta giocando sempre in campo suo. Non una squadra così importante come quella che ha la Juve, il fatto del campo lo dovrebbe lasciare da parte, dovrebbe dimenticarsene. Tu mi dirai, non è semplice perché magari ci sono 50.000 persone che fischiano contro e 1.000, 2.000, 3.000 a loro favore, sì, può anche essere, ma sono dei grandi professionisti e dunque dovrebbero anche essere un pochino più tranquilli, secondo me, non, io non la penso così. In casa o fuori casa dovrebbero giocare sempre alla stessa maniera, forti, in maniera sempre per vincere, gioca sempre per vincere, questo non ci sono dubbi, però senza pensare al fattore campo. Lo so Giulio, e anche io ho visto poi i commenti, le cose, in notte a Sky quando ho finito le partite, ho fatto vedere i gol, belli. Piani ci ha rischiato il rosso, Piani ci sta incominciando a diventare un pochino pesantuccio, così, e così non va bene, Adesso è ammonito, poi le ammonizioni si sommano e prima o poi una giornata la perde, a parte il fatto che ieri ha rischiato il rosso, se gli dava il rosso ieri non ci sarebbe stato niente da recriminare. Perché in queste entrate che sta facendo, se no torniamo al discorso dell'anno scorso, con l'Inter, ti ricordi che c'è stata un po' una polemica allora indifferente, aveva fatto un fallaccio, aveva fatto che anche lì che voleva il rosso, e poi la scusa era che non era stato espulso Pjanic. E le polemiche ha vinto perché ha giocato l'arbitro a favore della Juve, ma va bene così, dai. Pjanic si dovrebbe cercare di darsi una vita per giocare a pallone, non giocare in quel modo, perché intanto chi ci perde è sempre la Juve, non è solo lui a un certo punto, ma chi ci perde è la squadra. Ho capito, ma Pjanic è indispensabile perché se c'è lui a centrocampo, beh, c'è più sicurezza che ci sia Bentancur o l'altro, cioè, quindi bisogna stare attenti anche perché, ti ripeto, adesso iniziano le squadre forti, c'è il Napoli, c'è l'Inter, c'è la Roma, ci sono trasferte molto importanti come quella di Bergamo, cioè, bisogna stare molto attenti se vuole avere i risultati che sta ottenendo, perché cosa c'ha? 15 punti, 5 per 3, 15, cioè su 5 vinte, 2 non ha preso gol, però bisogna iniziare a capire che se vuoi vincere qualcosa devi ottenere risultati. I risultati si ottengono segnando e avendo un comportamento equo in campo nei confronti dell'avversario, perché insomma i contrasti sono contrasti, ma se tu fai un contrasto dove ne dai di gigallanca, allora non va più bene. Appunto, non va bene, no? Se fatica lo fatto, 18 punti ha 15 nel Napoli. Dunque, a questo punto, no, dovrebbe essere una neonata, perché non va bene, piano, ci sta diventando famoso. Se manca lui è il regista del centrocampo, è quello che va a riempire praticamente tutto il sincronismo di squadra, per cui non va bene, se lui si fa buttare fuori, la Juve, o almeno a me, dovrebbe cercare di avvisarlo, gioca pallone, non fare così, perché è qui chi ci va di mezzo poi è la squadra, non va bene, già c'è che lì che gli ha infortunato, che volemosi, poi se buttano fuori anche lui, vabbè, ci rimane Reciano, ci rimane Bentancur, tutto quello che vuoi, però non va bene, perché piano ci lo sappiamo, no? Si conferma quello ti sto dicendo, bisogna stare molto attenti, perché la sua assenza, non essendoci anche Chedira, cioè molto, inizia a esserci un po' di difficoltà al centrocampo, capite? A prescindere dagli altri giocatori che possono essere bravi o meno bravi, però lui ha le sue capacità e il suo gioco, e quindi è chiaro che c'è già un bel poco, la Juve sa manovrare bene il centrocampo, gli altri sono ancora, nonostante siano bravini, ma un po' inesperti secondo me, quindi bisogna stare molto molto attenti. Adesso vediamo, il problema era arrivare allo scontro diretto con la Juve, con Napoli, con 3 punti di vantaggio, capito? Perché se disgraziatamente la Juve vince, allora iniziano a essere pesanti, allora sono 6, capito? E allora inizia a volare, perché gli altri non stanno dando preoccupazioni, però il Napoli l'ho vista ieri l'ho vista giocare in uno squadrone, palle lunghe, palla bassa, stanno giocando molto alti e i terzini stanno correndo forte, poi Insigne ha una forma, quel ragazzo, allucinante. Sì, no, sono tutti bravi, i giocatori del Napoli sono tutti bravi, e poi sono giocatori che praticamente giocano quasi a memoria, quasi, nonostante che il gioco abbiamo cambiato un pochino, Sarri, ma Ancelotti non è più quello di Sarri, però si conoscono, capito? Sanno quali movimenti fanno fra compagni, dunque si trovano sempre, per cui sono da anni che stanno giocando sempre insieme e sono forti. Poi a quel centrale lì, gente come quelle balì, capita, basta pensare che in panchina c'è sempre Amsing, capita, perché Amsing è un grande giocatore, eppure se sta facendo molta panchina questo, evidentemente se lo mette in panchina vuol dire che gli altri sono all'altezza di poter stare in squadra titolare, non è lo scherzo, poi è quello che è macro, è quello che se vogliamo tutto sommato è il numero uno, forse è, non dico nel mondo, ma quasi nel mondo, almeno in Europa sarà massimo secondo dietro Guardiola e tutti gli altri, perché ha ancora Mourinho, secondo me l'ha superato, Ancelotti alla grande anche, quello del Mourinho ormai non è più come una volta, ecco. E vabbè, rimane sempre un ottimo allenatore. Ieri era a rischio la panchina della Roma di Francesco, adesso vediamo cosa decidono, perché ci sono allenatori a livello mondiale, c'è Conte in pole position, c'è Ranieri, c'è quello che allenava il Bayern, però se arrivi Conte alla Roma, madre de Dios. La Roma ha cambiato tanti giocatori, ha cambiato, poi si è venduto i migliori, Nainggolan, Alisson e Strootman, anche se Strootman sta andando malissimo in Inghilterra, tanto è vero, lo stanno criticando anche, dicono secondo gli inglesi non si impegna, ma io non lo so, bisogna vedere anche come lo sta impiegando, però venite, per cui bisogna vedere, perché da una squadra all'altra si può anche, ci può essere della differenza, anzi c'è senz'altro della differenza. Sì, ma tornando agli allenatori, secondo me, oggi come oggi, il migliore in assoluto è sempre Guardiola, poi io ci metto anche lui, poi ci metto Sarri, poi ci metto Conte, poi tutti gli altri vengono uno dietro l'altro, più o meno si è privato. Mourinho intanto gli ha tolto la fascia da capitano a Pogba, fa vedere che Pogba... speriamo bene, ragazzi, io sarei contentissimo se ritornassi alla Juve, perché sta andando molto molto bene quest'anno, anzi ha fatto un grande mondiale e sta facendo anche un buon campionato. Ma non va d'accordo, ecco, come io non va d'accordo, a questo punto è meglio che si dividano. Speriamo che non sia il Barcellona a fregarglielo alla Juve. Non c'è Barcellona, ha perso Real Madrid, mi ha preso 3 in campionato, ha perso il Barcellona e anche il Real Madrid, il Barcellona ha perso 2-0, il Real Madrid mi pare 3-0, stavo guardando, sì, è già statisticamente approvato, i prossimi acquisti per il prossimo anno sono Marcelo del Real Madrid e Pogba, tranquillo, e va via, Khedira è molto probabilmente Bentancur. Molto probabilmente Bentancur. Sulla fascia mi pare che vada via Alessandro. L'ho già letto da qualche parte. Beh, sicuramente altri movimenti ci saranno, non ci sono dubbi. Intanto ci saranno altri movimenti di formazione. Perché tutti gli anni sta cercando di mettere, aggiungere qualche tassello sempre più importante, proprio perché deve diventare un super squadrone, speriamo bene. Sì, no, ma voglio dire, perché no, vorrebbe anche per Pogba, speriamo che non si intrometta, anche se Pogba preferisce probabilmente andare alla Juve. Ma sai, Barcellona è una potenza in fatto di economico, per cui bisognerebbe vedere le offerte che fa, perché secondo poi le offerte che fa è chiaro che la Juve non la affronta di certo, ci mancherebbe, sai. Però lui personalmente, ma penso che preferisca la Juve, perlomeno stanno quello che scrivono sui giornali, poi faremo vedere cosa succede e chi lo sa, ma... Io ho già letto da qualche parte, perché Ronaldo sulla fascia vuole a Marcelo, Ronaldo vuole a Marcelo a tutti i costi, era già quasi fatta, solo che era finito il tempo per poter acquistare, ma penso che sia in programma della Juve già Marcelo, perché vuole venire a giocare con la Juve, perché c'è Ronaldo, capito? È l'unico che appoggia molto bene a Ronaldo e vanno molto d'accordo. E per il centrocampo può darsi pure che Piani ci rimanga, ma per il centrocampo Pogba è della Juve al prossimo anno, tranquillo. E allora già si canta un po' diversamente, si parla una lingua diversa, molto molto diversa, sicuramente. Se fa da bravo Douglas Costa da una parte, Marcelo dall'altra, e Pjanic e Pogba al centrocampo con l'attacco che ha la Juve, allora bisogna veramente parlare un'altra lingua. Beh, sicuramente sì. Con quei nomi, che sta, altro che dovrebbe andare a 1000 proprio, veramente. Adesso speriamo che si inserisca bene Ronaldo, perché anche se male lo sta giocando, nel senso che lui con la sua forza, eccetera, riesce a portare fuori aria un paio di difensori, e dunque, come vedi, si stanno liberando gli altri. facce impegnate, sarà più difficile per lui, perché lui lo mancano in maniera proprio agguerrita e proprio stressante. E allora, giocando lui a sinistra o a destra, secondo delle occasioni, dei momenti, e riesce a portare fuori dall'aria un paio di difensori che crossevano, perché lo devono mancare, perché lo temono anche quei calci da lontano, da fuori aria, e allora lo seguono. E in quel caso lì gli altri attaccanti si liberano, come già è successo, ad esempio con Mandzukic, che ha segnato la scorsa volta, con Dybala, che ha segnato ieri, con Matuidi, che nell'inserimento l'ha segnato anche lui, e come vedi. Però dobbiamo dire che palloni ne ha giocato tanti, perché ieri ha giocato solo 80-90 palloni, ha giocato, e non è sbagliato nemmeno di passaggi, qualcuno, ma raro, veramente raro, ne avrei sbagliato se no 2-3, non di più. Tutti gli altri sono andati a buon fine, tutti i palloni che ha giocato poi li ha smezzati bene, in maniera perfetta. Perciò anche se non sta segnando, però il suo contributo lo sta dando, no, questo non ci sono dubbi. Sì, ma l'ha detto anche Allegri, che il contributo di Ronaldo è molto importante, però è chiaro che non sta segnando, e per lui è un grosso problema. Lui ha il fiuto del gol, la voglia del gol, lo devi segnare, deve segnare, perché se non segna, tu lo vedi quando esce dal campo che non ha segnato, la partita è finita, è triste. Invece è sempre sorridente, quei gol che ha fatto quando è uscito era a 1000, perché lui è vincente. Tieni conto una cosa, che come ti ho detto prima, Real Madrid giocava per lui, però lui tutti i gol che ha sempre fatto li ha fatti per merito di Marcelo e delle fasce e del centrocampo. Se tu non le lanci palle lunghe, lui è sempre in aria, la palla te la butta dentro, o in una maniera o nell'altra te la butta dentro, perché è così, capito? Invece qua Iolanci ne sta valendo pochi, l'unico che sta lanciando un po' è Bonucci, però anche Pjanić, non palle, ne sta dando pochi. Vedi, se quando gioca da Grascosta gli arrivano le palle a Ronaldo, gli arrivano. Anche Cuadrado ha avuto la ghitamania di giugà, di bra, però poi non vedo grandi risultati. Da Grascosta arriva alla porta, dribblando arriva alla porta, corre come un dannato e arriva alla porta, e Cuadrado ha calato moltissimo. Sì, in effetti è così, è vero. Scusa un attimo, mi stanno chiamando il telefono, o qua, scusa. Vai. Claudio? E io? Era il telefono con un amico che mi ha chiamato. Stavo dicendo, che a quel punto lui, dai, Allegri preferisce, come spalla di Ronaldo, preferisce Mandzukic. Soprattutto quando ci sono squadre importanti come Napoli, ad esempio, perché dice che è un giocatore che si impegna molto anche in fase difensiva, e soprattutto fa da sportellate con giocatori tipo Koulibaly, che è fortissimo, che è il giocatore, che è quello quando vede l'avversario difficilmente passi, perché è forte. Anche se in questo periodo non mi sembra in grande forma, però è sempre un grandissimo giocatore, e poi è tutta la squadra che sta giocando e sta girando bene, perlomeno in quest'ultima partita che ha fatto, anche se era una squadretta quella che ha incontrato, però diciamo che si vede l'amore del gioco, c'era, e Ancelotti non è macro. A prescindere, ho visto un grande Napoli, un grande gioco, una grande professionalità, ma soprattutto certezze, molte certezze tra di loro, ho capito, bei passaggi, bei tocchi di palla, sia alti che bassi, lunghi, però c'è il però che secondo me l'unica squadra che può dare testa alla Juve e darle mattana forte. non penso che vengano a Torino a passeggiare, perché possono anche strappare un pareggio, addirittura anche vincere, anche se la Juve in casa è molto forte, in casa è molto forte, abbiamo visto da sempre, è spugnabile a Torino, però non lo so, ho visto un grande Napoli, a differenza dell'inizio del campionato, ho visto un grande Napoli, ora non so se è merito di Ancelotti che ha sistemato un po' meglio la squadra, o se sono loro che hanno preso il ritmo che prendono ogni anno, è già la sesta partita, quindi è chiaro che il gioco cambia tra le prime e le altre, molto forte il Napoli, caspita, molto forte. Sì, ma certo, il Napoli è forte, lo sappiamo, è una gran bella squadra, non la scopriamo oggi, sono già qualche anno che è forte, sarà lo stile atroce alla Juve, sono acquisiti anche i giocatori, stanno facendo delle dichiarazioni, dice andiamo a Napoli, andiamo a Torino per vincere e poi battiamo anche il Liverpool, così hanno dichiarato oggi i giocatori qualche giocatore del Napoli, adesso bisogna vedere. Dimenticare che l'anno scorso proprio a Torino ha vinto il Napoli. Bisogna stare attenti, anche se era all'ultimo minuto che aveva fatto quel diagonale, ragazzi, e con le pali si è inserito di testa e aveva bucato il Buffon. Per cui bisogna stare attenti, molto ma molto attenti, perché ancora oggi quando ci sono queste palle così in aria, palle alte in aria, non sono mai tranquillo. Quando io vedo un calcio d'angolo contro la Juve non sono mai tranquillo, perché secondo me non marcano proprio nella maniera migliore possibile. E capita, diverse volte hanno subito tutto su calci d'angolo oppure su punizione così dalla lunetta e che so io e con pretesta, insomma riescono sempre a toccare gli avversari e così non va bene, sono difensori che dovrebbero cercare di piattarsi meglio, ma quello dipende sempre da lei. Dipende sempre da lì, poi naturalmente anche i giocatori devono fare la loro parte, ci mancherebbe. Napoli, calcio d'angolo è forte, c'è Koulibaly, c'è Milik, gli altri sono tutti nanetti, però bisogna stare attenti perché i gol che ha preso la Juve, se controlli, li ha presi su calcio piazzato, calci d'angolo, calcio tiri di punizione, capito, a rientrare soprattutto alle fasce dalla lunetta, che sono molto pericolosi, ma i calci d'angolo, me lo ricordo, si è alzato 2 metri Koulibaly, vabbè che è 1,90, quindi è un bestione, però bisogna stare attenti anche agli altri. Napoli c'ha grandi saltatori, anche noi non scherziamo, però a me mi fa paura il Napoli, come l'ho vista ieri, sabato bisogna veramente avere la mentalità vincente, andarcene a 6 punti e allora già inizia a essere tranquillo, con questa velocità di gioco che ha preso la Juve e con questa tattica che oramai si è inserita, anche se Ronaldo sta segnando poco, però già segnano anche gli altri, non c'è problema. Però a me fa paura il Napoli, è l'unica squadra che anche l'anno scorso mi ha fatto soffrire sino all'ultimo. L'anno scorso non per niente il Napoli ha fatto 90 punti e non erano pochi. Nelle ultime partite ha risolto il problema di vincere proprio con certezza il campionato, proprio nelle ultime 2 partite, 3 partite, soprattutto quella con l'Inter, quando ha segnato di testa poi Higuaín, perché stava vincendo, poi si era fatta rimontare, si era fatta, poi alla fine meno male, ha segnato Higuaín con quel colpo di testa e allora lì era finito il campionato, era finito. Poi per giunta c'è stata anche una mano da parte della Fiorentina che aveva giocato il Napoli, aveva bloccato, e anche quello è stato un aiuto, ma non è che devi fare affidamento sulle altre squadre, ci mancherebbe altro, le altre squadre non giocano per vincere. È stato un caso che proprio con la partita, ad esempio, Fiorentina-Napoli, che è riuscita, che ha perso il Napoli, ha perso 3-0 con la Fiorentina, e proprio in finale di campionato, guarda che è triste perdere così proprio in finale del campionato, no? Purtroppo hanno perso, è meglio così per la Juve. Ieri anche la Fiorentina contro l'Inter ha fatto un partitone, poi c'è stato questo negli ultimi minuti sempre, l'Inter si sveglia, ha fatto un bel gol d'Ambrogio, se no finiva 1-1. Grande Fiorentina, c'è Chiesa, c'è Simeone, che aspetta, sono dei giocatori favolosi, ha fatto una bella partita, ha fatto una bellissima partita anche la Fiorentina, purtroppo si perde anche così. Però ti ripeto, ribadisco che a me il Napoli fa paura perché minchia, c'è un gioco allucinante. Ma il Real Madrid di Giugene, tu devi vedere queste palle basse, manco i piedi vedi come camminano da una parte all'altra, pum pum pum, hanno dei disimpegni allucinanti, hanno proprio un bellissimo gioco, veramente. Oltre a quello che ha fatto Sarri, sicuramente Ancelotti se la sta perfezionando, perché tu vedrai che ne esce una grandissima squadra. Sì, sicuramente, no, non ci sono dubbi, ma io temo molto quel Milik, Cagliarol e Insigne, sono tre attaccanti formidabili, Insigne specialmente con quella, da quella sua posizione, che poi sempre lì si piazza, ragazzi. Lui aspetta che gli passino il pallone e lì da fuori aria tira questo dalla parte destra della porta, e lui a giro tira sulla parte sinistra. Non è micidiale, ragazzi, azzecca sempre l'incrocio dei pali, è formidabile quel ragazzo, proprio bravo, senza considerare poi l'inserimento che fa quello Cagliarol, che anche lui è fortissimo, Milik già lo sappiamo, quello è micidiale come centravanti, per cui bisogna fare attenzione, molta attenzione, se che Bonucci, Chiellini e chi sarà per l'altro difensore, si devono svegliare, perché il Napoli sta giocando adesso con 4-4-2, e dunque 4 difensori, 4 centrocampisti e 2 attaccanti, quindi sono micidiali, bisogna cercare di bloccarli, perciò sia Bonucci che Chiellini, soprattutto loro due, dovrebbero fare una grande partitona, perché con Napoli non si scherza, non ti puoi restare nemmeno un secondo, nemmeno un minuto, perché sono troppo pericolosi. Ma comunque ti dirò che sabato alle 6 con la Juve ci sarà Ronaldo, e io sono convinto che Ronaldo segna un gol a Napoli, vedrai. E gioca anche Dybala, sicuramente. No, no, Napoli, guardate la formazione, la presunta formazione. A 3 gioca il Napoli contro la Juve. Milik, Insigne e Mertens. È più arretrato Kayekon. È lì il problema, hai capito Giulio? È lì il problema. Ce l'ho te nel macro. Con tre punte così, arretrando leggermente Kayekon e Coso, l'altro come si chiama, e lì devi avere paura, perché allora la Juve deve giocare con Ronaldo avanti, Dybala, Mandzukic e un po' arretrato Coso, l'altra punta che c'è. Non lo so, sarà una bella sfida, però io Napoli lo dimmo da Giuseppe Di Mizzo, e continuo a temerlo perché, ti ripeto, ribadisco, ha un gioco micidiale. Sì, perché hanno fame di vittorie, e vogliono vincere loro, perché sono già diversi anni che ci arrivano vicini, però non riescono a vincere, non a fare niente, e ci stanno tentando, e chiaramente sono giocatori che hanno voglia di mettersi in evidenza e soprattutto si impegnano allo spasimo proprio per cercare di vincere. Vabbè, Cariaco si inserisce, quello io temo, quello lo temo quel ragazzo, perché quello lì passa i palloni a Insigne, ragazzi, a Insigne è micidiale. Io quando lo vedo sulla parte sinistra dell'area del rigore dove gioca lui, che lui praticamente gioca in quella, e quando tira col destro al giro, io lo temo, perché azzecca sempre il 27, ragazzi, è una cosa micidiale, è una precisione straordinaria quel ragazzo. Sì, qualcuno mi va fuori anche, però ne ha buttato il Dante dentro. Speriamo bene quello che lui dica. Io voglio sperare che almeno il centrocampo e la difesa che siano in grande spolvero, proprio per cercare di bloccare questi attaccanti pericolosi del Napoli. Poi in attacco non preoccupa più di tanto, perché spero che almeno o Dybala o Ronaldo eccetera, che riescano a fare un golletto almeno, perché non è che te ne puoi immaginare di più, quando ne fai uno è già qualcosa. Vediamo bene. Gappa, aspetta che ho sentito qualcuno che chiamava, vediamo chi è. Oi, ciao Pinucci, sì che ti sento. L'hai messa a posto la radio? Perfetto, Santiago 5, Radio 5, Pinu. Perfetto, come sempre, radio bella, chiara, ma abbastanza forte. Vediamo se ti ascolta Giulio, ma non penso. Giulio, lo ascolti a Pinuccetto il Molo, a Budusa? No, no, non lo sento, assolutamente. Niente, no, è lui lo sente a me. No, e poi con questo maracchinetto 3 watt appena, no? Non ce lo dico. Io arrivo quando sono in banda laterale, arrivo a Budusa. Allora sì, ma così no, con questo non ci penso nemmeno. Dipende qua. Gappa. No, non ti ascolta Giulio, ma c'ha il baracchino piccolo, quindi non ti ascolta più. Eia, gappa, non tocca, che stia andando bene. Usa sempre quella formula che ti ho detto io, mai accenderla e andare subito a pigiare la portante. Lasciala andare un quarto d'ora, 20 minuti, mezz'ora, capito? Vedrai che problemi non ne hai. Purtroppo quella radio ha 2 conversioni e ha bisogno di scaldare se vuoi uscire bene. Non è come questa che ho io, che 3 conversioni, quindi se la lascio posso usarla anche a freddo, non succede niente. A 20 la lascio, a 20 la trovo. Lì devi cercare di far salire un po' tutto il meccanismo. Va bene Pino, grazie per essere entrato a salutare. Comunque Rix, Giulio ti saluta Pinuccetto, ma non ti sente, quindi preferisce rimanere in ascolto. Vai Giulio. Ok, sì, grazie per i saluti e ricambia o qua. Sì, beh certo, ma è così. Cosa stiamo facendo? Col 140? Sì. Ok. Beh certo, sì, e adesso sono da un bel po' di tempo senza sentire la Pinuccetto, non so se sta continuando a venire qui. Vabbè, adesso incomincia il suo periodo, no? A portare la legna e il carbone eccetera dalla parete. Lui viene sempre a Sassari per vendere, no? Sì, ogni tanto già scende lei a casa, c'è poco, però quando trasmette da casa sono in pochi che lo sentono, io perché sono qua in alto e quindi lo sento. Se no pochi lo sentono, lui sente pochi, capito? Però quando è in macchina già c'è il baracchino, quando è in zona già si fa sentire. Gappa, è così Giulio, è così. Ora il meccanismo è quello. Bisogna sondare bene, stare attenti alle squadrette. Oggi c'è Sassuolo Spal, mi pare. Sassuolo, poi c'è il Milan, non mi ricordo con chi gioca, e si completa la giornata di anticipo. E poi giocano sabato e domenica, la Juve gioca sabato. Mi sembra quelli che sono in Champions giocano sabato. Gli altri giocano tutte domenica, perché poi martedì 2 ottobre c'è di nuovo la Champions, quindi bisogna andare forte, picchiare forte e allenarsi forte. Vabbè, da Grascosta quanto ne ha già fatto? Due giornate ne ha già fatto? Sì, due giornate ne ha già scontate. Però speriamo che non sia fortunato, anche perché era anche fortunato. Allo stressore della gamba sinistra e poi aveva anche un qualcosina anche al muscolo, perciò bisogna, vabbè, ancora due giornate da scontare e dunque non stavo. Il discorso è sempre quello, ma in centro già può giocare, o se è infortunato come fa, non è possibile, e quello, il problema è quello. Non so come sta anche lì, non lo so, perché anche lì aveva qualche problemino, non so se si è ripreso, si sta riprendendo, non lo so, saremo a vedere. Però sicuramente adesso sabato giocherà anche Dybala, io penso che giochi Dybala, Ronaldo e Mando che ci attacco, sicuramente farà quelli, poi rientrerà suppongo Alessandro. E poi sulla parte destra, sulla fascia destra metterà a Cancelo come terzino, che lui è un terzino di spinta, e vediamo un po' come si mette la cosa, la questione. Comunque anche Barzagli sembra che si sia ripreso dall'infortunio, infatti ieri ha fatto qualche piccola apparizione, già l'ha fatta, e probabilmente sarà proprio quello, sempre che sia in forma. Barzagli, Bonucci e Chiellini, e chi lo sa, staremo a vedere, dai. E vabbè, comunque, anche se non c'è Chiellini, ci sarà Henry Cham e naturalmente anche Corso Pjanic, quelli sono immancabili. Sì, il centrocampo è Merchan, Pjanic, poi magari non so se entrerà Bentancur. Contro il Napoli c'è Pjanic e Merchan. Una parte c'è Cancelo, all'altra non lo so se gioca Quadrado o Coso o Alessandro, poi in avanti no, tiene buoni manchi in campo, gioca Bernardeschi, l'attacco è quello, contro il Napoli gioca Bernardeschi titolare, tu vedrai, gioca Bernardeschi, Ronaldo, Bernardeschi, Mandzukic, non c'è niente da fare, a meno che non faccia come fa il Napoli, che ci siano tutte e due, uno spostato da una parte e uno all'altra, non lo so, chi mi preoccupa è la fascia, se col Napoli ci fosse stato Douglas Costa dall'inizio e Cancelo dall'altra, se sarebbe avviato il Napoli, è troppo veloce la scorta, non lo tieni, capito? Potrebbe giocare Quadrado sicuramente per la sua velocità, per gli scatti che ha, ma non lo so, ho visto un po' un prototipo di squadra ed è questa che ti sto dicendo, però potrebbe cambiare, ma sai pur certo che Bernardeschi gioca dal primo minuto. Sì, è possibilissimo, ma io pensavo che magari lo facciamo entrare in corso di gara, perché vista la partita che ha fatto Dybala, magari sai come Allegri si basa anche su quelle cose lì, si basa, e magari ci mette al suo posto, ci mette Dybala al posto di Bernardeschi, anche se io preferisco Bernardeschi e questo non ci discute, però ho quella sensazione che magari lo fa entrare nel secondo tempo, lo fa entrare o in caso di necessità, e magari vuole continuare con Dybala, adesso vediamo che cosa combina, comunque va bene così. Ma io penso che Quadrado non penso che giochi, perché metterà sicuramente Cancelo sulla fascia dove gioca a Quadrado, lì perché fa è un terzino, ma è un terzino di spinta anche, e dall'altra parte sicuramente Alessandro, perché Alessandro ieri ha giocato, ha fatto una piccola apparizione, ha fatto, e penso che l'abbia fatto riposare proprio per riservarlo per giocare contro il Napoli, come ha fatto riposare Chiellini, sempre per lo stesso motivo, e così via. Faremo vedere, dai. Vabbè, con Bonucci e Chiellini non ce n'è problema, in coppia loro sono omicidiati. Poi, ti ripeto, è una partita molto molto delicata. Se disgraziatamente la Juve vincesse e fa 6 punti, allora inizia a stare un po' più serena, perché il Napoli è lì attaccato, e c'è anche partite abbastanza facili rispetto alla Juve. Sono partite anche abbastanza facili, tolta la Juve mi pare che ne abbia 2 facilissime, quindi, mentre la Juve è in trasferta e poi c'è mi pare la Roma, quindi poi c'è l'Inter, sono partite, non so, speriamo bene, la partenza è buona, rispetto agli altri la Juve è partita alla grande, poteva fare molto di più, però Vediamo cosa succede. Sì, beh certo, speriamo bene, infatti. Guarda, se la Juve vince gioca per 6 punti, no? Non per 3, sta giocando per 6 punti, perché se vince che passa con 6 punti di vantaggio sul Napoli, se invece perde allora sarà a pari punti, sicché per la Juve sabato prossimo è una partita da 6 punti, per cui deve cercare di vincere, è fondamentale, è quella una partita molto ma molto importante, è più importante per la Juve che per il Napoli, nonostante che il Napoli è guerritissimo, vuole vincere, e vediamo se ce la fa, o se è la Juve che vince, chi lo sa, sì, potrebbe andare bene anche un pareggio, però in casa un pareggio, insomma, non è che mi soddisfa molto, speriamo che vinca. E chi lo sa, speriamo che si esaltino tutti e che facciano una bella partita in modo da far sentire un pochino certe voci di questi napoletani. E Giovanni di Vavida, napoletano, Giovanni di Vavida. È il terzo anno che vogliamo fregare lo scudetto alla Juve. Rosoni, no. Il problema è che a differenza hanno un allenatore molto molto forte, vincente soprattutto, perché Ancelotti è stato sempre un vincente e anche adesso non è che sta lì a tirarsi indietro, capite? Quindi è così, però la Juve c'è una bella squadra. Speriamo bene per Ronaldo, sono contento di rivolgere il ruolo, ma sono contento. E il Milan anche è in netta ripresa, con l'ingresso di Higuain il Milan ha cambiato totalmente gioco, sono molto più lunghi, più alti, stanno giocando palle lunghe proprio per dare la possibilità a Higuain di segnare, infatti già è segnando. Sì, ma certo. Sì, in effetti il Milan con l'Empoli deve pedalare lo stesso, non è che oggi tra l'altro non gioca nemmeno Kroos, nemmeno Higuain, perché Higuain è fortunato, anche lui ha qualche problema ai pressuri, per cui oggi è a riposo, non è stato nemmeno convocato. E ci sarà questo Mourinho, come gente si chiama, e l'altro Cutrone in attacco. Sì, dicono che è molto bravo questo Mourinho, non so chi è, comunque, staremo a vedere. Sai cos'è che temo io anche, qua? Che anche lui ti conosce Vita e Miracoli di Ronaldo. Dunque, i consigli che dà al suo difensore, ai suoi difensori, quelli sono molto importanti. Però speriamo che Ronaldo invece incappi in una bella giornata di forma, e che qualsiasi consiglio che gli dà Ancelotti perché è stato giocatore, no? Gli è l'ultimo isolato. E dunque che risulterebbe vano in quel caso lì. Se si trova in grande giornata non ci sono consigli che valgono. Anche perché devo dire la verità, fino a questo momento tutto sommato Ronaldo è stato anche sfortunato. Sfortunato nel senso che i tiri che ha tirato in porta, pericolosissimi, i portieri hanno fatto dei miracoli, hanno fatto. Anche ieri, capita, mica a prendere un pallone proprio a fin di palo, raso a terra, il portiere, non è semplice. E gliel'ha parato, e lui ne ha fatto un paio così, e il portiere è intervenuto. Tu mi dirai, ma il portiere sta giocando lì, e l'ha messo in porta per parare, certo, ma certe parate sono dei miracoli, sono qua. È quella che ne ha tolto una fatta, anzi no, veramente il difensore l'ha tolta dalla porta, quindi no, già sta tirando, sta facendo, non ha ancora quello spirito giusto, quella mentalità proprio vincente con la Juve, lui è ancora in fase di assestamento, di assemblaggio come si dice, però corre. Ho visto che sale, scende e difende anche. Difende come vuole la Juve, gli attaccanti devono salire e scendere. Vabbè, da Mandzukic, anche Dybala ieri ha fatto così, Ho visto che saliva e scendeva. Allegri quello vuole dalle punte. Devono coprire anche, non devono stare sempre in aria, aspettare lanci lunghi, no, devono salire e scendere e cercartela la palla come fa Mandzukic, perché Mandzukic per me è un guerriero con la Juve. Mandzukic è un grande giocatore con la Juve ed è una spalla buona anche per Ronaldo, perché lui è fisicamente anche forte e dunque si difende bene e fa a sportellate con gli altri difensori, a differenza di Dybala che è Miguelino, è piccolino a confronto con gli altri difensori, per cui ho visto che ieri si è mosso molto bene, tra l'altro quello che ha fatto in mezza rovesciata con un tempismo eccezionale proprio da rapinatore d'aria, e tra l'altro l'ha fatto anche con destro, lui il destro lo usa molto poco ed è riuscito a segnare il primo gol, e va bene così, è andato bene, certo, e chi lo sa, forse che si sia rinfrancato adesso con questo riposo, con queste partite che ha fatto in panchina, che abbia capito che si deve impegnare, che d'altronde è sempre un grande giocatore, non è che da ieri ad oggi è diventato una schiaffa, anche se l'anno scorso non ha fatto un grandissimo campionato, però 22 gol li ha segnati l'anno scorso, lui Dybala ce l'ha del sangue, lui è un uomo, un giocatore dell'area del rigore, per cui si è messo in condizione il gol non le manca, io penso così, ma comunque staremo a vedere. Vediamo, ripeto, chi vivrà vedrà, è una grande partita quella di sabato, è una grande partita, devono dimostrare di essere più forti del Napoli, perché il Napoli essendo seconda a 3 punti sta dimostrando che c'è anche quest'anno e può darle grandi difficoltà, agli altri gliele sta dando tranquillamente. Che la partita di ieri non era facile, stai giocando contro il Parma, no? Stai giocando contro una squadretta di Serie B, il Parma è fortissimo, c'ha grandi giocatori, però ho visto che hanno spugnato completamente sia come gioco come tutto, hanno giocato molto molto bene, adesso aspetta a noi ricevere il Napoli e vedere come va. Certo, se giocano come hanno giocato ieri contro il Bologna, nonostante ci fosse un mezzo turnover, interessato tantissimo la Juve, ma tantissimo, forse perché Allegri ha detto che il Bologna non è una squadretta, che ha giocatori forti, capito? Ed è così, hai visto anche il Genoa senza Salt, che è passato a dove che gioca quello adesso, con l'Inter mi pare, Brunoso, ha vinto, grande squadra anche il Genoa, la Sampdoria ieri ha giocato molto bene, la Fiorentina, l'Atalanta ha pareggiato, campionato tosto, campionato molto tosto. Eh beh, certo, in effetti è così, quello che dico, una cosa è certa, sarà difficile per la Juve, ma sarà difficile anche per il Napoli, questo non ci sono dubbi, piuttosto sarà difficile anche per il Cagliari, contro l'Inter mi sembra che gioca, anche quello, come sarà difficile anche per la Roma con la Lazio, c'è il derby, sabato o domenica che giocheranno, non so, per cui vediamo un po' cosa succede. Speriamo che il Cagliari riesca almeno a strappare un pareggio con l'Inter, sarà difficilissimo perché non credo che ce la possa fare con l'Inter, però è meglio se strappasse almeno un pareggio. No, per niente, perché l'Inter non lo posso vedere, tutta la squadra lo posso vedere, per carità. Prima, per me, come squadra mi davo l'Inter come seconda squadra italiana, ma da quando è successo il Calciopoli, che loro hanno accettato lo scudetto gratis a tavolino, non lo posso vedere più. Io spero che un giorno possano scendere in Serie B, perché sono disgraziati veramente, guarda, loro si basano su quella soglia lì, hanno fatto il triplette, ma quale triplette hai fatto? Le hanno regalate di campionati, guarda, comunque, è andata così con la volta, pazienza. Saremo a vedere, comunque aggressiva ieri l'ha fatto la doppietta, lo abbiamo detto, l'ha fatto. Io penso che lui ci sia pentito di lasciare andare via Andre Silva. Giulio, Andre Silva è un giocatore molto molto forte e sta giocando con una squadra che le danno palloni, tu la bai andando via da Ronaldo con Real Madrid, se Bale segnava, o Isco, loro già che segnava, non segnavano pochissimo, sì azioni, però segnava quasi sempre Ronaldo. Ma hai visto Bale cosa sta facendo? Bale, Isco tira le punizioni, ha fatto un bel gol su punizione. Però ha pigliato tre perette Real Madrid in campionato. Lei e il Barcellona hanno perso tutte e due. Sì. In effetti è così. E quando c'era Ronaldo, quindi faceva molta panchina, difficilmente giocava, perché c'era Isco, giocava Isco, perché Isco secondo me era anche migliore di Billy. Però Billy adesso sta giocando a destra con Real Madrid a quanto sembra. Poi al centro si sa, c'è sempre Benzema lo stesso, fortissimo. La spalla di Ronaldo era Benzema e Marcelo con Real Madrid quando c'era Ronaldo, e sul gol ne ha fatto tantissimi, soprattutto per i suggerimenti che hanno dato Marcelo, perché si inserisce continuamente. Oltre al fatto che segna anche di tanto in tanto, ma era uno di quelli che gli metteva il pallone sui piedi a Ronaldo, e lui con la sua soltezza, col suo doppio passo eccetera, e con le sue girate improvvise tirava da qualsiasi posizione, siccome c'è anche la potenza dell'uomo, e dunque ha un tiro omicidiale, fortissimo, basta guardargli le gambe, che razza di muscolatura che ha, sembrano le gambe la muscolatura di un cavallo, si può immaginare, potere di due. La Madrid c'ha quei giocatori lì che l'apertura di gioco sono venuto da VAR, con i lanci di Marcello per Ronaldo, anche per Isco, non c'entra a fare, poi centrocampo, con Benzema a centrocampo, Benzema è uno dei migliori centrocampisti al mondo, non c'entra a fare, è tutto forte Real Madrid, però aveva quella persona in più, quel giocatore in più che faceva la differenza. Oggi io l'ho vista giocare, sì, ho visto Bale facendo delle belle cose, però manca quel perno che 9 anni c'è stato a Real Madrid, Ronaldo Giulio. Se avesse giocato in Italia con la Juventus, 9 anni, sai cosa avrebbe costruito, cosa avrebbe fatto. Purtroppo c'è un mese da quando è iniziato il campionato che sta giocando con la Juve, quindi c'è un po' da capire la situazione, ha bisogno di tempo, ha bisogno di inserimento, ha bisogno di ambientarsi. Non è facile per un giocatore che ha giocato 9 anni con una squadra passare ad un'altra, capito? Higuain ha giocato con Napoli per tanti anni, ha giocato in Italia, quindi non è che il gioco gli è cambiato tantissimo quando è arrivato alla Juve. Si è visto anche adesso col Milan, già dalla prima partita ha segnato subito, si è inserito bene, perché? Perché è abituato al gioco italiano, che sia Milan, che sia Juve, che sia Inter, che sia Roma, qualsiasi squadra, lui sta giocando in Italia già da tanto tempo, mentre Ronaldo è un mese che gioca in con la Juve, come fai ad ambientare un giocatore che per 9 anni ha giocato in un campionato spagnolo, come fai? È completamente diverso. Sì, ma quello senz'altro, ci vuole un po' di pazienza, ci vuole, bisogna passare il tempo che riesca ad inserirsi, soprattutto che riescano ad avere intesa fra giocatori e giocatori, perché non è solamente Ronaldo, sono anche gli altri giocatori che devono capire come gioca Ronaldo, come si muove, dove si sposta, e tutte queste cose dipende soprattutto dagli altri giocatori, in modo che lui possa essere servito a dovere e poterlo mettere in condizioni di calciare porta. Questo non ci sono dubbi. Dopotutto non è l'unico giocatore che nella Juve ha dovuto aspettare per inserirsi. Lo stesso Platini, ricordo che aveva avuto 6 mesi, non un giorno, 6 mesi. Dopo 6 mesi era diventato grandissimo, perché non era più per nessuno. Era agli stessi livelli di Maradona praticamente, era, o quasi. Per cui però i primi 6 mesi era proprio, sembrava un acquisto sbagliato, altro che sbagliato, poi era migliore. Fate pensare 2 volte, mi sembra, o 3 volte il pallone d'oro, con la Juve, non è poco, per dire, no. Perciò lasciamogli tempo, è giusto che sia così, che questo qui ha bisogno di ambientarsi, non solamente, ma anche con la lingua, perché non parla l'italiano, insomma, tante cose, deve ambientarsi un po' in tutto, anche addirittura nell'alimentazione, una mangia come si mangiava in Spagna, l'altra è mangiare come mangia qua, perché si sa, lo sappiamo intanto che la squadra ti impone anche quello, una certa dieta, l'allenamento diverso, e tante cose sono, qui l'allenamento è duro e dunque sono le prime, diciamo così, sessioni di allenamento, e che poi il fisico, fin quando non si è proprio abituato bene a quel tipo di allenamento, non può essere all'apice dell'efficienza massima, ci mancherebbe altro. Perché è vero, bisogna lasciargli tempo di ambientarsi e di aspettare e di capire qual è il gioco e come si gioca in Italia soprattutto. Mi hai detto bene, un problema anche di comunicazione, perché anche Chiellini l'ha detto, non parla una parola in italiano, riesce a comunicare poco anche con lo sta aiutando molto Dybala, lo sta aiutando molto Douglas Costa, capito? Cancelo lo stesso, lo stanno aiutando loro un po', ma penso che in poco tempo riesca un po' a comunicare anche bene in italiano, è una persona molto intelligente, però è un problema anche per lui, l'ha detto anche lui in una conferenza stampa, che ha bisogno un po' di tempo perché non riesce, soprattutto nella comunicazione, a comunicare bene con i colleghi, capito? E quindi ci sono tante problematiche che lui deve superare proprio a livello anche mentale, e quindi si incazza sicuramente, perché anche l'altra volta non riusciva a comunicare e si è incazzato, era un po' nervoso, vai. Mentre l'hanno intervistato, ha detto un poco di cosa ha detto in portoghese, insomma, cercato di farsi capire e avere un po' di pazienza, perché ha grandi difficoltà anche nella comunicazione, a prescindere da tutto il resto. Ma piano piano, anche Dybala quando è arrivato non è che era tutto questo gran spettacolo, col tempo si è un po' messo a posto, però gli altri, mi ricordo Trezeguet aveva portato una vita a far vedere l'italiano e ambientarsi, però quando si è ambientato, grazie a Dio, Vidal la stessa cosa, e cioè tutti i giocatori che sono arrivati alla Juve stranieri ci hanno messo il suo tempo per ambientarsi e per far vedere che cosa valevano. Lui, ti ripeto, non è facile, 9 anni al Real Madrid, con quel gioco lì, con quella mentalità vincente, perché il Real Madrid con lui ha ancora e aveva la mentalità vincente, quindi ci vuole un po' di pazienza, perché se andiamo in fondo è un mese che lui, quasi 2 mesi che lui è in Italia, quindi diamo tempo al suo tempo. Sì, ma certo, tanti motivi ci sono, oltre che appunto le servono per potersi ambientare, ma anche la pressione, ma gli stessi tifosi che con tutto l'amore che gli hanno dimostrato, anche quello può essere dannoso, perché a un certo momento l'affetto è bello, però ti mette, c'è uno stretto, gli metti tanta pressione, perché lui vuole subito riparare l'affetto che i tifosi gli hanno dato, lui vuole subito riparare con le sue giocate, con i suoi gol, eccetera, ma non è così facile, non è così semplice, anzi secondo me lui dovrebbe giocare un pochino più tranquillo, in modo che poi il massimo rendimento viene sicuramente, perché viene, non ci sono dubbi. E questo è importante, la pressione, un atleta quando è pressato dal tifo, sai, fa tanti pensieri, la notte, quello non fa sogni d'oro, ma bensì sogni e incubi, pensando ai tifosi, per cui è tutto messo insieme, tutte queste cose messe insieme fa sì che l'atleta non riesce magari a rendere al massimo quello che sa rendere, ecco, tutto lì. Anche questi giornalisti lo sai come sono, no? I giornalisti già lo sai, e un giorno dalle stelle ti portano subito, l'indomani ti portano alle stalle, dalle stelle alle stalle, no, alla stalla, alle stalle, perché tutti quanti poi sono unanimi criticando, no? Ma non è possibile, dunque queste cose sono fondamentali per la resa di un giocatore, di un atleta, ma non solamente nel calcio, in qualsiasi sport è così, la pressione è micidiale, ci sono quelle che magari non la sentono molto, ma ci sono quelle che invece hanno un diverso carattere e la pressione che gli mette la gente la sentono, la risentono ed è micidiale. Già non è nuda quando ti pressano così come stavano facendo Dybala nell'ultimo periodo. No, ma comunque ho visto anche l'articolo, mi stavamo poco fa. Ronaldeschi. Ronaldo Bernardeschi, Mandzukic, niente da fare. Ronaldeschi oramai sono chiamati, la coppia Ronaldeschi. Si intendono moltissimo, è quella la... l'attacco è quello venuto da va. E vabbè, aspettiamo a sabato, dai, adesso mi... io ti lascio perché sono le 8 meno 20 quasi. Pippetto, per quello è qua, poverino. Vado a sistemarmi il cane, dai. È già bucio, becchio, manca accorto, me ne so. C'ho la luce accesa. Non me ne sono manca accorto, Giulio. Dai, vado a portare il cane, sono già le 8 meno 20. Grazie per le due chiacchiere, forza Juve, adesso poi ci guardiamo il Milan a vedere cosa combina. Ok Giù, chiudo che è tardi, dai, ciao, buona cena, saluti a casa e ci aggiorniamo domani, va bene? Ok Nicola, ciao, grazie per la chiacchieratina, dai, ci sentiamo domani eventualmente, speriamo che entri anche Marco, perché anche lui in questo periodo è troppo assente, va bene. Ciao qua, grazie per i saluti e ricambiato tutto anche da voi, dai. Ci sentiamo nel prossimo, ciao ciao. Ciao ciao, no Marco, siamo sentiti e non è in forma e poi c'ha problemi a casa anche con la mamma, quindi non sta entrando. Ma è appena tutto a posto, già si fa sentire. Infatti un altro saluto a tutti. Ok, e intanto già vorrei cenare, le 8:20 sono, dai. Andiamo a portare il cane e poi ci aggiorniamo. Ciao, a domani Giulio, buon fine serata, buon tutto, ciao ciao. Grazie qua, anche a te, dai, buona serata anche a te, a domani, ciao, ciao, buona cena, ciao. Ciao, ciao, ciao.